Il trionfo di Cristo nell'umiltà. Lux fulgebit odie super nos, quia natus est nobis dominus. Oggi splenderà la luce su di noi perché ci è nato il Signore. Ecco il grande annuncio che commuove in questo giorno i cristiani e che per loro mezzo viene rivolto a tutta l'umanità. Dio è in mezzo a noi. È questa la verità che appaga la nostra vita. Ogni Natale deve essere per noi un nuovo e peculiare incontro con Dio, in modo tale che la sua luce e la sua grazia entrino fino in fondo nella nostra anima. Mentre ci soffermiamo davanti a Gesù bambino, a Maria e a Giuseppe e contempliamo il Figlio di Dio rivestito della nostra carne, mi torna alla memoria il viaggio che feci a Loreto il 15 agosto 1951 per visitare la Santa Casa e pregare per un'intenzione che mi stava molto a cuore. Vi celebrai la messa. Volevo dirla con raccoglimento, ma non avevo fatto i conti con il fervore della folla. Non ho pensato che un giorno di festa così solenne avrebbe richiamato dai dintorni un gran numero di persone che portavano con sé la fede benedetta di quella terra e tanto amore alla Madonna. La loro pietà li spingeva a manifestazioni non del tutto appropriate, se si considerano le cose, come dire, soltanto dal punto di vista delle leggi rituali della Chiesa. Infatti, mentre baciavo l'altare secondo le prescrizioni del messale, tre o quattro donne lo baciavano con me. Ero distratto, ma commosso. La mia attenzione era scossa anche dal pensiero che nella Santa Casa, che la tradizione vuole sia il luogo dove vissero Gesù, Maria e Giuseppe, fossero scritte in alto, sopra l'altare, queste parole: «Hic verbum caro factum est». Qui, in una casa costruita da mano d'uomini, in un lembo della terra su cui viviamo, Dio ebbe la sua dimora. Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo. Il Figlio di Dio si è fatto carne ed è perfectus Deus perfectus homo. In questo mistero c'è qualcosa che dovrebbe emozionare profondamente i cristiani. Ero commosso allora e lo sono ora. Vorrei ritornare a Loreto. Mi porto là con il desiderio per rivivere gli anni dell'infanzia di Gesù ripetendo e meditando quelle parole: «Hic verbum caro factum est». Jesus Christus, Deus Homo. Ecco i magnalia Dei, le opere meravigliose di Dio, dinanzi alle quali dobbiamo meditare e di cui dobbiamo rendere grazie al Signore, a colui che è venuto a portare la pace in terra agli uomini di buona volontà, a tutti coloro che vogliono unire la loro volontà alla volontà santa di Dio, non soltanto ai ricchi, né soltanto ai poveri, ma a tutti gli uomini, a tutti i fratelli, perché tutti siamo fratelli in Gesù, tutti figli di Dio e fratelli di Cristo, e sua madre è nostra madre. Sulla terra non c'è che una razza, quella dei figli di Dio. Tutti dobbiamo parlare la stessa lingua, quella che ci insegna il Padre nostro che è nei cieli, la lingua del dialogo di Gesù col Padre, la lingua che si parla col cuore e con la mente, quella stessa che usate ora nella vostra orazione. È la lingua delle anime contemplative, di coloro che sanno essere spirituali perché consapevoli della loro filiazione divina. Una lingua che si esprime in mille emozioni della volontà, in tante illuminazioni radiose dell'intelligenza, negli affetti del cuore, nelle decisioni di condurre una vita retta, santa, lieta e pervasa di pace. Dobbiamo contemplare Gesù bambino, nostro amore, nella culla. Dobbiamo contemplarlo consapevoli di essere di fronte a un mistero. È necessario accettare il mistero con un atto di fede. Solo allora sarà possibile approfondirne il contenuto, guidati sempre dalla fede. Abbiamo bisogno, pertanto, delle disposizioni di umiltà proprie dell'anima cristiana. Non vogliate ridurre la grandezza di Dio ai nostri poveri concetti, alle nostre umane spiegazioni. Cercate piuttosto di capire che nella sua oscurità questo mistero è luce che guida la vita degli uomini. «Noi osserviamo», scrive San Giovanni Crisostomo, «che Gesù proviene da noi, dalla nostra natura umana, ed è nato da una Vergine Madre. Non comprendiamo però come un tale prodigio possa essersi compiuto. È inutile affannarci a tentare di scoprirlo. Accettiamo piuttosto umilmente quello che Dio ci ha rivelato ed evitiamo di curiosare su ciò che Dio ci ha nascosto. Tale accettazione ci porterà a comprendere e ad amare. Il mistero sarà allora un insegnamento incomparabile, più convincente di qualsiasi ragionamento umano». il senso divino dell'esistenza terrena di Gesù. Quando parlo davanti al presepio, cerco sempre di immaginarmi Gesù, nostro Signore, proprio così, avvolto in fasce e adagiato sulla paglia di una mangiatoia. Ma al tempo stesso cerco di vederlo mentre è ancora bambino e non parla, come dottore e maestro. Ho bisogno di considerarlo in questo modo perché devo imparare da lui. Per imparare da lui è necessario conoscere la sua vita, è necessario leggere il Santo Vangelo e meditare le scene del Nuovo Testamento per addentrarci nel senso divino dell'esistenza terrena di Gesù. Dobbiamo infatti riprodurre la vita di Cristo nella nostra vita. Ma ciò non è possibile se non attraverso la conoscenza di Cristo, che si acquista leggendo e rileggendo la Sacra Scrittura e meditandola assiduamente nell'orazione, così come facciamo ora davanti al presepio. Bisogna capire gli insegnamenti che Gesù ci dà fin dall'infanzia, fin da neonato, fin dal momento in cui i suoi occhi si sono aperti su questa benedetta terra degli uomini. Gesù, che cresce e vive come uno di noi, ci rivela che l'esistenza umana, con le sue situazioni più semplici e più comuni, ha un senso divino. Benché abbiamo considerato tante volte questa verità, ci deve pur sempre riempire di ammirazione la considerazione di quei 30 anni di oscurità che costituiscono la maggior parte del tempo che Gesù ha trascorso tra gli uomini sui fratelli. Anni oscuri, ma per noi luminosi come la luce del sole. Sono anzi lo splendore che illumina i nostri giorni, che dà ad essi il loro autentico significato. Perché altro non siamo che comuni fedeli che conducono una vita in tutto uguale a quella di tanti milioni di persone dei più diversi luoghi della terra. Per 6 lustri Gesù non fu che questo, Fabri Filius, il figlio dell'artigiano. Quando poi vengono i 3 anni di vita pubblica e l'osanna delle folle, la gente si stupisce. Chi è costui? E dove ha appreso tante cose? Perché la sua vita era stata la vita comune della gente della sua terra. Egli stesso era noto come Faber, Filius Marie, l'artigiano, figlio di Maria. Ed era Dio, e veniva a compiere la redenzione del genere umano, ad attirare a sé tutte le cose. Come per ogni altro avvenimento della nostra vita, mai dovremmo contemplare quegli anni nascosti di Gesù senza sentirci coinvolti, senza cogliere il significato che più da vicino ci riguarda. Sono appelli che il Signore ci rivolge per farci uscire dal nostro egoismo, dalla nostra comodità. Il Signore conosce bene i nostri limiti, l'attaccamento alla nostra personalità, le nostre ambizioni. Conosce quanto ci sia difficile dimenticare noi stessi e darci agli altri. Sa che cosa sia non trovare amore e constatare che anche quelli che dicono di seguirlo lo fanno solo a metà. Ricorderete le scene drammatiche narrate dagli evangelisti, nelle quali vediamo gli apostoli pieni ancora di aspirazioni temporali e di progetti soltanto umani. Ma Gesù li ha scelti. Li tiene con sé e affida loro la missione che egli aveva ricevuto dal Padre. Anche noi siamo chiamati da Gesù che ci domanda, come a Giacomo e a Giovanni, «Potestis, bibere calicem, quem ego bibiturus sum?» Siete disposti a bere il calice che io sto per bere, il calice dell'abbandono completo alla volontà del Padre? Possumus. Sì, siamo disposti, rispondono Giacomo e Giovanni. «Io e voi». Siamo veramente disposti a compiere in tutto la volontà di Dio nostro Padre? Abbiamo dato tutto intero il nostro cuore al Signore o ci manteniamo attaccati a noi stessi, ai nostri interessi, ai nostri comodi, al nostro amor proprio? C'è qualcosa che non si addice alla nostra condizione di cristiani e che ci impedisce di purificarci? Ecco oggi l'occasione di rettificare. Come prima cosa, è necessario convincerci che è Gesù a rivolgere a ciascuno di noi queste domande. È lui a farle, e non io. Io non oserei porle nemmeno a me stesso. Sto continuando la mia orazione ad alta voce, ma è dal suo intimo che ognuno di noi confessa al Signore: Gesù, che poca cosa sono, quanta viltà in tante occasioni, quanti errori in questa o in quella circostanza, in quel luogo e in quell'altro. Ma possiamo anche aggiungere: meno male, Signore, che mi hai sorretto con la tua mano, perché mi riconosco capace di ogni infamia. Tienimi stretto, non mi lasciare. Trattami sempre come un bambino. Vorrei essere forte, coraggioso, coerente, ma tu aiutami come si aiuta una creatura inesperta. Conducimi per mano, Signore, e fa che anche tua madre sia accanto a me e mi protegga. E allora, possumus, lo potremo, ci sentiremo capaci di prendere te come modello. Non è presunzione affermare possumus. Gesù stesso ci insegna questo cammino divino e ci chiede di intraprenderlo, dal momento che egli lo ha reso umano e accessibile alla nostra debolezza. Ecco perché si è abbassato tanto. Questo è il motivo per cui quel Signore, che in quanto Dio era uguale al Padre, si è umiliando la forma di servo, ma si è abbassato per quanto riguarda la maestà e la potenza, non per quanto riguarda la bontà e la misericordia. La bontà di Dio ci rende agevole il cammino. Non possiamo respingere l'invito di Gesù. Non possiamo dirgli di no. Non possiamo renderci sordi al suo appello. Non avremmo scuse, non avremmo argomenti per continuare a credere che non possiamo. Egli ci ha istruiti con il suo esempio. Pertanto vi supplico, fratelli miei, non permettete che vi sia stato mostrato in vano un modello così prezioso, ma configuratevi a lui e rinnovatevi nell'intimo della vostra anima. Passò sulla terra facendo il bene. Vedete quant'è necessario conoscere Gesù e studiare con amore la sua vita. Molte volte ho cercato nella scrittura una sintesi biografica di Gesù, una definizione della sua attività terrena. L'ho trovata coniata dallo Spirito Santo in due parole: per transit benefacendo. Giorno per giorno, tutta la vita di Gesù sulla terra, dalla nascita alla morte, non è che questo per transit benefacendo. Riempì tutto di bene. In un altro punto la scrittura dice ancora di lui: bene omnia fecit, fece bene ogni cosa, portò tutto a termine e non operò altro che il bene. Tu e io, che cosa ne deduciamo? Esaminiamoci per vedere che cosa abbiamo da correggere. Io trovo in me tanto da rifare, ma poiché da solo mi riconosco incapace di operare il bene, e Gesù stesso ci ha detto che senza di lui non possiamo nulla, decidiamoci, tu ed io, a implorare il suo aiuto con la mediazione di sua madre. Ci rivolgiamo a lui in questi colloqui intimi, propri delle anime che amano Dio. Non aggiungo altro, perché ognuno deve parlare a tu per tu, secondo i suoi bisogni. Mentre vi do questi consigli, dentro di me e senza suono di parole, applico questo criterio alla mia personale miseria. Per transit benefacendo. Che cosa fece Gesù per prodigare tanto bene e nient'altro che bene lungo il suo passaggio? I Santi Vangeli ci danno la risposta facendoci conoscere, in tre parole, un'altra biografia di Gesù. Erat subditus illis. Egli obbediva. Oggi che il mondo è così pieno di disobbedienza, di mormorazioni, di disunione, tanto di più dobbiamo apprezzare l'obbedienza. Sono un grande amico della libertà e proprio per questo amo tanto la virtù cristiana dell'obbedienza. Dobbiamo sentirci figli di Dio e vivere il desiderio appassionato di compiere la volontà del Padre. Fare le cose secondo il volere di Dio perché ci va di farle. Ecco il motivo più soprannaturale della nostra condotta. Lo spirito dell'Opus Dei, che da più di 35 anni cerco di vivere e di insegnare, mi ha fatto comprendere e amare la libertà personale. Quando Dio nostro Signore concede agli uomini la sua grazia, quando li chiama con una vocazione specifica, è come se tendesse loro la mano. Mano paterna, piena di fortezza, ma soprattutto di amore, perché egli ci cerca a uno, come figli e figlie, e conosce la nostra fragilità. Il Signore attende da noi lo sforzo di prendere la mano che ci porge. Ci chiede questo sforzo come riconoscimento della nostra libertà. Per riuscire a compierlo, è necessario essere umili, sentirci figli bambini, e amare la benedetta obbedienza dovuta alla sua paternità benedetta. Al Signore dobbiamo permettere di entrare nella nostra vita e di entrarvi agevolmente, e lo faremo sgombrando ostacoli e illuminando i nascondigli interiori. Noi uomini abbiamo la tendenza a difenderci, ad aggrapparci al nostro egoismo. Cerchiamo sempre di essere dei re, sia pure del regno della nostra miseria. Capite bene allora quanto grande è il bisogno di ricorrere a Gesù. Egli solo può farci veramente liberi per poter servire Dio e tutti gli uomini. Comprenderemo allora tutta la verità di queste parole di San Paolo. Ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo nostro Signore. Procediamo tuttavia guardinghi, perché la nostra tendenza all'egoismo non muore e la tentazione può infiltrarsi in mille modi. Dio esige che nell'obbedienza venga esercitata la fede, perché la sua volontà non si manifesta con strepito. Sovente il Signore suggerisce la sua volontà sottovoce, nell'intimo della coscienza. Per riconoscere tale voce e seguirla fedelmente, è necessario ascoltare con attenzione. In molte altre occasioni, il Signore ci parla per mezzo di altri uomini, e può capitare che la vista dei loro difetti o il dubbio sulla loro idoneità a comprendere tutti i dati di una situazione concreta siano come un invito a non obbedire. Tutto ciò può avere un senso divino, perché Dio non impone un'obbedienza cieca, ma un'obbedienza intelligente, che ci faccia sentire la responsabilità personale di aiutare gli altri con i lumi del nostro intelletto. Cerchiamo però di essere sinceri con noi stessi. Esaminiamo caso per caso se a muoverci è l'amore alla verità o non piuttosto l'egoismo e l'attaccamento al nostro criterio. Quando le nostre idee personali ci dividono dagli altri, quando ci portano a rompere la comunione con i nostri fratelli, a rompere l'unità, è evidente allora che non operiamo secondo lo Spirito di Dio. Non dimentichiamocelo. Per obbedire, ripeto, ci vuole umiltà. Consideriamo ancora l'esempio del Signore. Gesù obbedisce, e obbedisce a Giuseppe e a Maria. Dio è venuto sulla terra per obbedire, e obbedire a delle creature. Sono, è vero, due creature di grande perfezione. Maria Santissima, Madre Nostra, più di lei solo Dio, e San Giuseppe, uomo castissimo. Ma sono pur sempre creature. E Gesù, che è Dio, era loro sottomesso. Dobbiamo amare Dio, e così ameremo la sua volontà, e avremo il desiderio di rispondere agli appelli che ci rivolge attraverso gli impegni abituali della nostra vita quotidiana, attraverso i doveri del nostro Stato, l'attività professionale, il lavoro, la famiglia, i rapporti sociali, le sofferenze proprie e altrui, l'amicizia, lo zelo per compiere ciò che è buono e giusto. Quando giunge il tempo natalizio, mi piace contemplare le immagini di Gesù bambino. Quelle figure che rappresentano il Signore nel suo annientamento mi ricordano che Dio ci chiama, che l'Onnipotente ha voluto presentarsi a noi indifeso e come bisognoso degli uomini. Dalla culla di Betlemme, Gesù dice a me e a te che ha bisogno di noi, ci sollecita a una vita cristiana senza compromessi, a una vita di donazione, di lavoro, di gioia. Non raggiungeremo mai la vera serenità se non imitiamo davvero Gesù Cristo, se non lo seguiamo nell'umiltà. Lasciatemelo dire di nuovo. Avete visto dove si nasconde la grandezza di Dio? In una mangiatoia, con le fasce di un neonato, dentro una grotta. La forza redentrice della nostra vita sarà efficace pertanto solo se c'è umiltà, solo quando smetteremo di pensare a noi stessi e sentiremo la responsabilità di aiutare gli altri. Non è infrequente che anche anime buone si provochino conflitti personali, tali da suscitare serie preoccupazioni, ma che in realtà sono privi di ogni base oggettiva. Nascono da una conoscenza di se stessi tanto inadeguata da scatenare la superbia, il bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione e della stima degli altri, la preoccupazione di fare bella figura, il non rassegnarsi a fare il bene senza farlo vedere, l'ansia per la propria sicurezza. In tal modo, molte anime che potrebbero godere di una pace meravigliosa e gustare una gioia incomparabile finiscono, per orgoglio e presunzione, per essere infelici e infeconde. Cristo fu umile di cuore. In tutta la sua vita non volle per sé nulla di singolare, nessun privilegio. La sua esistenza umana ha inizio nel seno di sua madre, ove permane 9 mesi come ogni altro mortale, nel modo più naturale. Ben sapeva il Signore quale estremo bisogno avesse di lui l'umanità, e ardente era la sua ansia di scendere sulla terra per la salvezza di tutte le anime. Eppure, ogni cosa segue il suo corso. Egli nacque quando giunse il suo momento, come ogni altro uomo sulla terra. Dal concepimento alla nascita, nessuno, tranne Giuseppe ed Elisabetta, si rende conto del prodigio. Dio viene a porre la sua dimora tra gli uomini. Il Natale di Gesù è soffuso di ammirevole semplicità. Il Signore viene senza risonanza, sconosciuto a tutti. Qui in terra soltanto Maria e Giuseppe partecipano a questa avventura divina. Poi i pastori ai quali gli angeli recano l'annunzio, e più tardi quei saggi dell'Oriente. È così che a compimento l'evento trascendente che unisce il cielo alla terra, Dio all'uomo. È mai possibile tanta insensibilità di cuore al punto di abituarsi a queste scene? Dio viene nell'umiltà perché ci sia possibile avvicinarlo, perché ci sia possibile corrispondere al suo amore con il nostro amore, perché la nostra libertà si arrenda non più soltanto alla manifestazione della sua potenza, ma anche allo splendore della sua umiltà. Ineffabile grandezza di un bambino che è Dio. Suo padre è il Dio che ha fatto i cieli e la terra. Eppure egli è lì, in una mangiatoia. Quia non era teis locus in diversorio, perché non c'era altro posto sulla terra per il Signore di tutto il creato. Compì la volontà del Padre. Non mi discosto dal rigore della verità se affermo che Gesù cerca ancora una dimora nel nostro cuore. Dobbiamo chiedergli perdono per la nostra sbadataggine, per la nostra ingratitudine. Dobbiamo chiedergli la grazia di non chiudere mai più davanti a Lui la porta della nostra anima. Il Signore non ci nasconde che l'obbediente sottomissione alla volontà di Dio richiede spirito di rinuncia e di dedizione, perché l'amore non reclama diritti, vuole soltanto servire. E a Lui, che per primo ha percorso questo cammino, noi domandiamo: Gesù, come hai vissuto l'obbedienza? Usque ad mortem, mortem autem crucis, fino alla morte e morte di croce. Bisogna uscire dal proprio guscio, complicarsi la vita, perderla per amore di Dio e delle anime. Ecco, tu volevi vivere, non volevi che ti accadesse alcunché, ma Dio ha voluto diversamente. Vi sono due volontà, ma la tua volontà si pieghi alla volontà di Dio e non la volontà di Dio si torca alla tua. Ho visto con gioia molte anime mettere in gioco la propria vita, come hai fatto tu, Signore, usque ad mortem, per compiere tutto quello che la volontà di Dio chiedeva. Hanno impegnato tutte le loro aspirazioni e il loro lavoro professionale al servizio della Chiesa, per il bene di tutti gli uomini. Dobbiamo imparare ad obbedire, dobbiamo imparare a servire. Non c'è nobiltà più grande che decidere di darsi volontariamente in aiuto agli altri. Quando sentiamo che l'orgoglio ribolle dentro di noi, la superbia ci fa credere di essere dei superuomini, allora è il momento di dire di no, di dire che il nostro unico trionfo deve essere quello dell'umiltà. In tal modo ci identificheremo con Cristo crocifisso. E non, nostro malgrado, insicuri e a malincuore, ma lietamente, perché la gioia nel momento dell'abnegazione è la dimostrazione più bella dell'amore. Consentitemi di parlare ancora della schiettezza e della semplicità della vita di Gesù, che già tante volte vi ho fatto considerare. Gli anni della vita nascosta del Signore sono tutt'altro che insignificanti, ne rappresentano una semplice preparazione agli anni della vita pubblica. Fin dal 1928 ho compreso con chiarezza che Dio desidera che i cristiani prendano esempio dalla vita del Signore tutta intera. Da allora ho capito appieno la sua vita nascosta, la sua vita di umile lavoro in mezzo agli uomini. Il Signore vuole che molte anime trovino la loro via in quei suoi anni di vita silenziosa e senza splendore. Obbedire alla volontà di Dio, pertanto, è sempre un uscire dal proprio egoismo. Ma non è detto che ciò sia possibile solo a condizione di abbandonare le circostanze ordinarie di una vita come è quella di coloro che per il loro stato, la loro professione e il loro posto nella società sono in tutto uguali a noi. Il mio sogno, un sogno che è divenuto realtà, è che vi sia una moltitudine di figli di Dio che si santificano vivendo la condizione comune dei loro simili, condividendone le ansie, le aspirazioni, gli sforzi. Sento il bisogno di gridare loro questa divina verità. Voi restate in mezzo al mondo non perché Dio si sia dimenticato di voi, non perché il Signore non vi abbia chiamati, vi ha invitati a permanere in mezzo alle attività e agli impegni terreni, facendovi capire che la vostra vocazione umana, il vostro lavoro, le vostre doti, lungi dall'essere estranee ai disegni divini, sono le cose che Egli ha santificato, vivendole come offerta graditissima al Padre. Quando si ricorda a un cristiano che la sua vita non ha altro senso che di obbedire alla volontà di Dio, non si pretende con questo di separarlo dagli uomini. Anzi, nella maggior parte dei casi, il comandamento ricevuto dal Signore di amarci l'un l'altro come Egli ci ha amati, significa vivere accanto agli altri e allo stesso modo degli altri, pienamente dediti a servire il Signore in mezzo al mondo per far meglio conoscere l'amore di Dio a tutte le anime, per dire a tutti che si sono aperti i cammini divini della terra. Il Signore non si è limitato a dirci che ci amava, ma lo ha dimostrato con le opere. Non dimentichiamoci che il Signore si è incarnato per insegnare, perché noi apprendessimo a vivere la vita dei figli di Dio. Ricorderete il prologo dell'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli. Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Teofile, que cepit Iesus facere et docere. Ho parlato delle cose più notevoli che Gesù fece e insegnò. Venne a insegnare, ma innanzitutto a fare. Venne ad insegnare, ma facendosi modello, facendosi maestro ed esempio con la sua condotta. Possiamo ora continuare il nostro esame di coscienza davanti a Gesù Bambino. Siamo decisi a fare in modo che la nostra vita serva di modello e di insegnamento agli uomini, nostri fratelli e nostri uguali. Ognuno di noi è deciso a essere un altro Cristo, ma non basta dirlo con le labbra. Tu, che come cristiano sei chiamato a essere un altro Cristo, lo domando a ciascuno di voi e lo domando a me stesso, meriti che si dica anche di te «cepit facere et docere», e cioè che hai cominciato a fare le cose da figlio di Dio, attento alla volontà del Padre, in modo da spingere tutte le anime a prendere parte alle cose buone e nobili, divine ed umane della redenzione? Vivi la vita di Cristo nella tua vita ordinaria in mezzo al mondo? Fare le opere di Dio non è una bella frase. Significa corrispondere all'invito di spendere la propria vita per amore. Bisogna morire a se stessi per rinascere a vita nuova. Tale è l'obbedienza di Gesù. Usque ad mortem, mortem autem crucis, propter quod et Deus exaltavit illum, e per questo Dio lo esaltò. Quando si obbedisce alla volontà di Dio, la croce è risurrezione, esaltazione. È così che si compie in noi momento per momento la vita di Cristo. È così che potremo dire serenamente di aver vissuto cercando di essere buoni figli di Dio, di essere passati per questa terra facendo il bene, nonostante tutta la nostra miseria e gli errori personali, per quanto numerosi. E quando verrà la morte, e verrà inesorabilmente, potremo accoglierla con gioia, come ho visto che l'hanno accolta tante persone sante a conclusione di un'esistenza ordinaria. Con gioia, vi dicevo, perché quando si imita Gesù nel fare il bene, e si obbedisce e si porta la croce, nonostante le nostre miserie, risuscitiamo con Cristo, perché Cristo è veramente risorto. Surrexit Dominus Vere. Il Signore che si è fatto bambino, meditatelo, ha vinto la morte. Attraverso l'annientamento, l'umiltà e l'obbedienza, attraverso la divinizzazione della vita ordinaria e corrente delle creature, il Figlio di Dio è riuscito vincitore. Tale è il trionfo di Gesù, di colui che ci ha elevati alla sua altezza, all'altezza dei figli di Dio, scendendo al nostro livello, al livello dei figli degli uomini.